Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Ora io penso che saranno forse 20 anni che non metto piede su una bicicletta, ma forse quando avevo qualche figlio piccolo, una decina d'anni fa, a Villa Borghese, li portavo con il tandem, ma nemmeno sono tanto sicuro. Devo dire che venendo da una terra collinosa e selvaggia come l'Umbria, andare in bicicletta non era tra le attività preferite nemmeno quando ero ragazzo. Essendo poi venuto a vivere a Roma, sono arrivato in una città in cui andare in bicicletta corrispondeva all'abbracciare una particolare filosofia di vita. Ricordo i primi anni che stavo qui, negli anni Ottanta, c'erano un paio di giornalisti molto eccentrici che andavano alle conferenze stampa in bicicletta, vestiti elegantissimi, con delle biciclette stupende, le parcheggiavano come se fossero dei gioielli, ma erano esempi molto rari. Ancora oggi mi capita di vedere attraverso il traffico cittadino qualche signore e signora in bicicletta. Sono sempre delle scelte coraggiose, delle scelte controcorrente. Sembra quasi una sorta di sfida agli altri occupanti della strada andare in bicicletta. E in effetti andare in bicicletta ultimamente è diventato un vero pericolo. Un automobilista ubriaco alla guida ha investito e ucciso un ciclista, ne ha investiti altri tre, poi ha proseguito la sua corsa, infine è stato arrestato dai carabinieri. Una volta sottoposto all'etilotest è risultato positivo. L'incidente questa mattina, la macchina ha, l'uomo ha perso il controllo della Mercedes dopo una curva sulla statale 18 in località Marinella, Sant'Eufemia di Lamezia Terme, e ha quindi travolto il gruppo di ciclisti. Erano in 10, 7 sono morti sul colpo, altri 3 sono rimasti gravemente feriti. Forse fra le tante stragi nascoste, occulte o anche molto palesi, quella dei ciclisti era considerata poco, ma in effetti guardando i numeri bisogna preoccuparsi. Vedo su Repubblica di un paio di giorni fa che nel 2009 ci sono stati 295 morti ciclisti, 243 uomini e 52 donne, 288 morti nel 2008, 352 morti nel 2007. Beh, devo dire che comincia a esserci un dato piuttosto preoccupante di quanto andare in bicicletta sia pericoloso. Esistono alle latitudini varie del nostro paese varie possibilità. Alcune città del centro Italia, dell'Emilia Romagna, Bologna è una città che da pazzi non andare in bicicletta. A Milano ancora andare in bicicletta può avere un senso, si vede usare normalmente la bicicletta. A Roma è un po' più difficile, essendo dotata di ben 7 colli. Per venire a lavorare qui dovrei farmi una bella pedalata in salita. Si può fare, tutto si può fare, ma chi me lo fa fare, mi domando io. Paolo Rumiz, sempre sullo stesso giornale, in prima pagina, Repubblica di martedì, fa un disperato appello sul fatto che l'Italia non sia più un paese per ciclisti, mettendo a punto alcuni fattispecie specifiche molto, molto, ahimè, del quali siamo anche molte volte noi protagonisti. Dice: gli automobilisti per strada non ti guardano, non ti vedono, ti considerano un bersaglio nel palabrezza, quasi un gioco di PlayStation a destra nella mezzeria. È uno scontro culturale prima che urbanistico. Le due ruote sono viste come un intralcio al traffico, non come la base per te concessionarlo. E questo è proprio vero. Quando vediamo un ciclista per il traffico romano che arranca in mezzo alle macchine o a un semaforo blocca una fila di macchine, diciamo: ma chi lo fa fare a quello di andare in bicicletta? Cosa vuole dimostrare? 800 24 00 24, siate voi ciclisti o siate voi cacciatori di ciclisti, questa è la vostra mattinata. Ambe Virginina ha presa la cotta, ma la spinta? E dai, devo attaccare? Oh, fa come te pare, non rientra tardi. Dagli la bomba che sono morti. A me il ciclismo non mi è piaciuto mai, per carità, è uno sforzo antiestetico, un grosso alle cosce, meglio il biliardo. Questo è Gasman nel sorpasso, spaccone con la sua macchina sportiva, anche lui poi alla fine andrà a schiantarsi e ci lascerà la pelle il povero studentello Trintignant, ma se la prende con i ciclisti, la grande spacconata, colui che si è emancipato, le quattro ruote veloci e decappottabili, come può vedere un ciclista, un poveretto che arranca, pedala come una sorta di schiavo della fatica. Beh, ancora è rimasta questa sorta di pregiudizio nei confronti dei ciclisti, ma forse stamattina occorre fare un punto. Senza dividere il mondo in buoni e cattivi, in cattivi, assassini, serial killer, automobilisti e poveri ecologisti, bravi e buoni ciclisti, perché ci sono delle norme anche per chi va in bicicletta. E non è detto che necessariamente chi va in bicicletta le conosca tutte, e non è detto che se le conoscesse un po' meglio e le mettesse in pratica magari sarebbe più facile per lui salvarsi la vita. Riccardo Alemanno, buongiorno. Buongiorno Gianluca e agli ascoltatori. Riccardo Alemanno, sempre nella veste di direttore dell'ACI di Roma, perché noi lo conosciamo in ben altre vesti anche a questi microfoni, questa mattina ci aiuta a fare il punto sulla normativa che riguarda i ciclisti. Primo paradosso, Riccardo, tu hai davanti due foglioni tutti sottolineati e evidenziati di norme che dovrebbero conoscere i ciclisti. Ma se io compro una bicicletta e mi metto a pedalare nel traffico, nessuno mi domanda una patente, un patentino, un qualche riconoscimento o prova che io conosca le norme. Ma il ciclista potrebbe essere totalmente ignorante, per assurdo, delle norme che invece dovrebbe conoscere. Beh, certo, la legge non ammette ignoranza, quindi il codice della strada è una legge, allora in teoria uno la dovrebbe conoscere anche se non ha la patente. Però non sarebbe male fornire questa informativa ai ciclisti nel momento stesso in cui acquistano una bicicletta, per esempio. Perché le norme sulle biciclette non le conoscevamo, in effetti anche io ero ignorante prima di prepararmi questa trasmissione. Beh, di fronte ai morti forse bisogna cominciare a rendersi conto di quale sia il problema. Perché c'è un dato preoccupante, in controtendenza, fatto bene quell'articolo che hai citato di Fralis, mi pare, sì. L'Italia non è un paese per le due ruote e in effetti i morti in bicicletta sono 295 nel 2009, quindi aggiorno la statistica perché i dati erano fino al 2008 e pensa che 2212 sono i morti in Italia di veicoli a due ruote, quindi su un totale di 3570 veicoli. Due ruote, quindi ci sono in mezzo anche i motociclisti? No? Anche i motociclisti. I ciclisti sono, ti dicevo, 295, però l'impatto delle utenze deboli della strada è superiore al 60%. Se si riducessero i problemi, gli incidenti, i morti per le due ruote, si ridurrebbe l'impatto letale degli incidenti di oltre il 60%. Beh, è tanto. Quindi, questo. Sì, sì, è tantissimo. Quindi già apre il dibattito sulla strada come luogo di convivenza tra utenti forti e deboli. Sentiamo subito Attilio. Attilio, ciclista, va tutti i giorni in bicicletta. Buongiorno Attilio. Buongiorno. Sì, io... In quale città innanzitutto? Questo è fondamentale. Io effettivamente sono di un piccolo centro circondario di Bergamo, piccolo, 8.000 abitanti. Però due cose ufficialmente. Insistiamo tutti, o perlomeno ci dobbiamo cercare di andare in bicicletta, eccetera, eccetera, va benissimo, la cosa mi va bene. Però poi, quando creano questi sensi unici, sensi di marcia obbligatori, il ciclista è obbligato a seguire il senso di marcia. Quindi, se io uso la bicicletta per accorciare le distanze, che è più comodo rispetto alla macchina, e poi mi tocca andare a fare un giro dell'oca che non finisce più, quindi non capisco com'è possibile questa cosa. Quindi, secondo lei, le normative che regolano il flusso nelle strade dei centri, grandi o piccoli, sia, non tengono conto anche chi debba andare in bicicletta? Dovrebbero tener conto di più, perché sennò è inutile favorirli. Perché se mi inciti a usare la bicicletta e poi mi fai fare un giro di 3 km perché io devo seguire il flusso della macchina, perché non in tutte le strade è possibile realizzare la pista ciclabile. Non si può camminare sui marciapiedi, no? Mi verrebbe questo. Non posso nemmeno andare sul marciapiede, perché sennò ostacolo il pedone e poi questi qua reclamano anche loro. Quindi cioè, ci sono dei controsensi che effettivamente non funzionano. E la seconda cosa, se posso, una mia esperienza personale, è riguardo la sensibilità degli amministratori, dei corpi municipali di polizia, eccetera. Io sono stato ufficialmente investito 8 volte in un determinato incrocio del mio piccolo paese. C'è anche l'investimento ufficioso? Investimento ufficiale con Croce Rossa, eccetera. Ma 8 volte significa, nel giro di 4 anni, io ho subito 8 investimenti ufficiali e circa 42 evitati dal sottoscritto. Ma la cosa che mi ha... Ah, se l'hai segnati tutti, 42 tutti tentativi segnati, di... Di sì, travolgimento. Ho fatto poi tutta la cosa, ma per essere brevi, allora la cosa che mi ha dato fastidio è che da parte dei corpi, del corpo municipale, si è arrivati alla risposta: ma tu cambia strada che non ti succede più niente. Quindi lei sottoscrive una sorta di trascuratezza per questo pare della strada che ma è il ciclista. Ma è capitata così. E alla si fine fermi a tiro, si fermi, perché abbiamo due donne cicliste. Tatiana. Buongiorno. Tatiana, donna ciclista. Sono qui. Ex ciclista, purtroppo. Perché ex? Si è schiantata? No, grazie a Dio non mi è mai successo niente in bicicletta. Solamente che vivendo a Milano ho dovuto smettere di andare in bicicletta. Ma Milano è piena di signore milanesi acchittatissime che vanno in bicicletta. Ne vedo tanti. Diciamo che il rapporto, come dicevo prima la signorina quando ho chiamato, il rapporto tra la città di Milano, comunque l'Interland anche, e il Veneto, dove ho abitato per una decina d'anni, è veramente da 1 a 1000, nel senso che a Milano chiaramente se ne vedono molto poche, si vedono delle persone in centro prevalentemente che vanno in bicicletta, sì, prendono anche queste è un po' una fighettata da zona centro, quello è vero, sì. Sì, però è anche una comodità, perché effettivamente poter andare in bicicletta è una grossa comodità e soprattutto ritengo che faccia anche molto bene al fisico. E quello che dicevo, è vero che le donne che vanno in bicicletta hanno bellissimi polpacci, gambe stupende. Aiuta e aiuta anche il cuore, la circolazione. Anche i tre palmi ne hanno dei vantaggi, devo dire, stando seduto in bicicletta. Sentiamo Nadia. Buongiorno. Altra donna ciclista. Buongiorno. Io sono un automobilista, volevo puntualizzare questo. Quando il ciclista percorre le strade in fila indiana, occupa uno spazio della carreggiata che dall'automobilista è prevedibile possa essere occupato. Quando invece si viaggia in gruppo, quindi 10 persone o di più... I cicloturisti. Esatto. Perché non adottano, anche se è amatoriale, lo stesso sistema che si usa quando si fa una corsa... magari di un certo tipo, dove c'è un'auto che li precede, un'auto che li segue con i lampeggianti. Vabbè, ma 10 geometri del catasto che vanno in bicicletta la domenica per lasciare in pace le mogli. Certo. E non si possono portare la macchina con la barriera. No, un amico si dedica a questo, perché un gruppo di 10 che viaggiano in seconda, terza, quarta fila, senza badare al traffico, è chiaro che uno che fa una curva non può immaginare di trovarsi dall'altra parte praticamente come un mezzo pesante. Sì, è come un camion, diciamo. Come un camion, che però va a 30 all'ora. Allora, Nadia, lei ha detto... Lo tamponerebbe comunque, capisce? Sì. Lo tamponerebbe comunque. Col camion si fa male, con il ciclista è come buttare giù i birilli. Esatto. Brava, Nadia. Nadia ha detto una cosa saggia, però. Riccardo Alemanno, facciamo il punto su quello che dovevamo dire. Sì, dunque, allora, l'articolo 182 è quello che regolamenta la circolazione dei velocipedi, si chiamano così. Perché ancora c'è questo termine arcaico, il velocipede? Il nostro diritto viene da lontano e noi ci teniamo a mantenere che hanno quelli questa senza terminologia. Pedali. Sì, è vero, però sono così. Allora, dice l'articolo, e questo per Attilio che ha chiamato prima, che comunque la comune diligenza e la comune prudenza devono essere sempre osservate dal ciclista. I ciclisti devono procedere su un'unica fila, mai affiancati in numero superiore a 2. Questa è una delle regole che i ciclisti dovrebbero conoscere. Quindi il gruppone dei cicloturisti è assolutamente travestiti vietato. da corridori del Giro d'Italia non è possibile. 23 euro di multa fino a 92. Massimo in 2. Quindi se per strada ne vedete 4 affiancati, dovete dirlo, voi dovete stare a coppia. Ma quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere in un'unica fila. Salvo che uno di essi sia minore di anni 10 e proceda sulla destra. Questo è verissimo. Questa è la regola. Poi riguardo alla signora che dice che molte volte non sono ben segnalati, si vedono poco, sono pericolosi. Ci sono delle norme molto precise su quello che deve avere lì addirittura a disposizione un ciclista. C'è addirittura l'articolo 224 del regolamento di attuazione al codice della strada, che prevede la luminosità di minima della luce anteriore, posteriore, l'altezza dove deve ad esempio, essere posizionata. Dì la norma esatta. Beh, è complicatissima. Dice che dunque la luce anteriore consiste in un fanale bianco-giallo ad alimentazione elettrica posto a un'altezza compresa tra un minimo di 30 e un massimo di 100 cm da terra. Ma queste saranno già costruite le biciclette. Ma comunque deve essere tutta attrezzatura omologata dal Ministero dei Lavori Pubblici. Beh, quando uno compra una bicicletta, se la paga, secondo me. E dovrebbe accertarsi che sia omologata tutta l'attrezzatura. Sì, ci sono quelle da fuori strada con il faro che si aggiunge, magari non c'è, bisogna stare molto attenti. Anteriore, posteriore e i famosi catarifrangenti gialli sui pedali. E come dovrebbe vestirsi? Ecco, questa è la novità del nuovo articolo, quello che è stato approvato nella ultima riforma che è entrata in vigore dall'agosto del 2010. Il nuovo articolo, che è un comma aggiunto, e stabilisce che il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere o nelle gallerie deve ha l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Ecco, quanti di voi che andate in bicicletta avete in dotazione il giubbotto e le bretelle retroriflettenti? Perché se entrate in una galleria dovete fermarvi un attimo con la bicicletta, infilarvi le bretelle e uscite dalla galleria a togliervi, almeno questo dice la norma. Ivano, buongiorno. Buongiorno signore. È un ciclista? No, io non sono un ciclista. Cacciatore di ciclisti? Vado in automobile da 60 anni, ho quasi 80 anni. Senta, per la strada si trova i gruppi di ciclisti, addirittura che bisogna suonare il clacson. Questo mi sto rendendo conto, Ivano, che è un problema, perché noi tutti siamo stati presi dal senso di dolore e di sconforto per i 7 morti ultimi che ci sono stati e questi numeri impressionanti. Però onestamente il gruppone dei ciclisti, soprattutto se la strada non è molto larga, un pochino, appena un pelino, un po' rompono a tutti, o no? Certo, ma però volevo dire, io senta, quando è andata la notizia che ne hanno ammazzati 7, lo sa cosa ho detto molto cattivamente? Non lo dica però. No, ho detto se stavano in fila almeno ne avrebbero ammazzati 2, invece hanno infilato il gruppo. Ha capito qual è la differenza? Ah, se stavano, come dice la legge, 2x2, massimo una vetro. Senta, anche 2x2 bisogna vedere la strada. Perché ci sono delle strade che non si può circolare neanche a 2x2. Sì, comunque in questo caso era, diciamo, persona che era stato non, aveva bevuto, pare, queste cose. Adesso non mi ricordo, non ho ben presente il fatto di cronaca. Non era nelle condizioni psicofisiche di poter guidare e quindi era suo il problema. Sono d'accordo, ma quindi, però può succedere anche in altre condizioni. Diciamo non è mai io giustificato esempio, chi travolge un'altra persona con la macchina. Però in effetti il fatto che procedere in gruppo lungo la strada, se non è nel corso di una competizione ciclistica, come ci ha detto l'ascoltatrice, ci dovrebbe essere tutte le norme di sicurezza, è un fatto rischioso. Sentiamo adesso un esperto di ciclismo, di bicicletta, di tutela dei diritti del ciclista, che è Luca Conti. Luca Conti, buongiorno. Buongiorno a voi. Luca Conti, autore di un manuale di resistenza del ciclista urbano e di Ciclo Editori. Immagino un editore specializzato in produzioni di testi e manuali per il ciclista. Lei ha sentito quello che hanno detto, diciamo, le due campane riassumibili in automobilista che nel rispetto della vita altrui dice però i ciclisti per strada dovrebbero mantenersi entro certe norme e i ciclisti che invece invocano il diritto di esistere anche loro, non siamo i disperati, i paria, i reietti della strada. Come la vede lei? Fino adesso diciamo abbiamo capito che il ciclista è un grave pericolo per la carrozzeria delle auto e per le statistiche sull'incidentalità, cioè aggrava il numero di morti e feriti sulle strade a fronte di una diminuzione per esempio degli incidenti sulle autostrade grazie al tutor, però questo è un modo da automobilista di vedere le cose e anche diciamo un automobilista con qualche pregiudizio magari. Diciamo una sorta di pregiudizio quasi razzistico da parte dell'automobilista nei confronti del ciclista, io sento molta amarezza nelle sue parole. No, beh, amarezza, questo è realismo, diciamo che il problema è che la circolazione sancita dal codice della strada prevede le biciclette e prevede anche altre cose, per esempio l'articolo 141 ci dice che il conducente deve regolare la velocità del veicolo in modo che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. È chiaro, se uno mantiene le regole di sicurezza anche guidando l'automobile, fa in tempo a vederlo il ciclista, quindi non è giustificabile andargli addosso, questo, sì, questo diciamo, non ci piove. Diciamo questo vale anche per i disabili, i pedoni, tutti gli utenti deboli della strada, cioè vale un principio precauzionale per cui al di là del fatto che si abbia il famoso autovelox per misurare la velocità, tutti quanti i conducenti del veicolo a motore dovrebbero regolarsi con prudenza. Poi se vogliamo vedere il problema ciclista nel marasma quotidiano delle metropoli, questo è dato intanto dal fatto che i ciclisti in Italia sono pochi nelle città e quindi questo è scientificamente dimostrato da studi fatti a livello internazionale che la presenza, diciamo la sicurezza dei ciclisti è direttamente proporzionale al loro numero, ossia se io come conducente di veicoli a motore sono abituato a una circolazione a pedali, intanto li vedo i ciclisti mentre sto in auto e mi regolo di conseguenza, sono abituato anche ad avere un certo comportamento di rispetto, magari non fare proprio non fare il pelo e contropelo al ciclista. Che no, poi no, lei ha molta ragione, lo sa, perché io dico che nella una città come Roma, in cui è abbastanza raro vederli nel traffico, al di fuori delle piste ciclabili, in zone non strettamente centrali, in cui in fondo c'è un traffico limitato, dà un po' di disagio a un semaforo vedere una persona sui San Pietrini in falso piano che arranca un semaforo. Uno c'ha un attimo di disagio, ma c'è un alto senso di timore che questa persona possa farsi male, cadere all'improvviso. Però vedo che molte volte invece le persone si attaccano al clacson, gli suonano e fanno come fa Gassman nel sorpasso. Ci fermiamo soltanto un istante per le informazioni della borsa e con Luca Conti ci sentiamo tra un istante. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. La decisione di celebrare anche in Italia la giornata mondiale della bicicletta è stata presa dal Consiglio dei Ministri. Il primo ambizioso ma possibile obiettivo del disegno di legge è quello di rendere le nostre città a misura di ciclista. Per questa ragione si è pensato di dotare di parcheggi per le due ruote gli edifici che sono adibiti a pubbliche funzioni. Anche le amministrazioni locali dovranno facilitare l'uso delle biciclette. Per questo nasceranno più parcheggi in prossimità di stazioni ferroviarie o del metrò. Una spinta al fenomeno del cicloturismo. Con la bici pieghevole si potrà anche salire tutti i giorni sul tram. Sotto questo sole bello pedalare, sì. Io questa mattina volevo soltanto, unicamente, riflettere sulle catombe di ciclisti sulle nostre strade, ma a me ho scoperto, e forse involontariamente, fomentato una guerra di cui non avevo nessun tipo di premonizione fra automobilisti e ciclisti. È proprio vero, sì, esiste questa sorta di antagonismo sottile e nascosto fra chi va in bicicletta, impugna il suo diritto di occupare poco spazio, di essere ecologico, di non infastidire nessuno, di poter andare lentamente, e chi va in automobile, che lo vede come un ostacolo alla propria vitale espansione, al proprio desiderio di velocità. Sentiamo Giovanni. Giovanni, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Mi sente? Certo. Allora, io premetto, sono un appassionato della bicicletta. Quando posso sono sempre in bicicletta. Lei però anche della polizia stradale, un poliziotto. Come? Della polizia stradale. Sì, io opero nel settore della polizia locale. Allora, io premesso che, come ho detto prima, adoro la bicicletta, quindi mi piace andare in bicicletta. Dove però va? Per capire la zona d'Italia, così vediamo un po' il paese. Lombardia. Lombardia è una regione dove c'è molta possibilità di andare in bicicletta. Sì, c'è molta possibilità, ma nonostante ci sia molta possibilità, sia dal punto di vista planimetrico, ma anche di strutture realizzate a favore dei ciclisti, dove la norma prevede comunque delle aree dedicate a loro, gli stessi ciclisti molte volte non le utilizzano per, immagino, pigrizia. Perché dove esistono questi percorsi dedicati, molte volte, se lei nota, c'è una duplice segnalazione, percorso ciclopedonale. Perché si dà la possibilità agli utenti deboli di percorrere quelle aree riservate a loro, perché come si diceva, come è stato detto prima, essendo veicoli lenti possono costituire un pericolo per la circolazione, ma non solo, più che altro per loro, perché loro sono l'utente debole della strada. Ma io vedo le poche piste ciclabili che sono per Roma, ci vanno pattinatori, pedoni, carrozzine, ci va chiunque. Ma non i ciclista. Sì, pochi ce ne stanno in piste ciclabili. Esatto, è quello poco che dicevo prima, cioè viene perché non riesco a capire il motivo, probabilmente perché la vedono come... Ma io dico io, come chi c'ha il motorino si sente un gran furbastro se cammina sui marciapiedi e taglia il traffico a metà, cioè c'ho il motorino. In bicicletta uno è ancora più stimolato a camminare sui marciapiedi. Può darsi, ma la cosa ancora più grave... Dal mio punto di vista sono sì ciclisti che trasgrediscono le regole, ma sono quei ciclisti minori che a loro volta utilizzano delle biciclette. Lei prima ha accennato alle biciclette fuori strada. Quando lei va a acquistare la bicicletta per suo figlio o per sua figlia, deve comunque preoccuparsi di avere un veicolo a norma per suo figlio o sua figlia. Con i freni, con tutto il regolo. Esatto, con tutto. Guardi, una delle cose che più mi fa tremare, che vedo la domenica per Roma, sono con le famigliole, con papà, mamma, con due bambini sui cestini, sulla canna della bicicletta, via dicendo, e altri due con le biciclettine, magari con le due rotelline, che partono ai semafori e sono veramente una sorta di corteo di formichine che non aspettano altro che qualcuno le schiacci. Esatto. Poi un altro aspetto comunque importante è l'illuminazione, che comunque mi sembra l'esperto dell'ACI prima avesse... Il direttore Alemanno l'ha appena detto, ci sono delle norme molto precise, bisogna mettere le bretelle catarifrangenti. Esatto, ma a prima delle bretelle, dove era obbligatorio i catarifrangenti, sistemi di illuminazione eccetera, non sono mai, cioè pochissime volte sono state tenute in considerazione dagli stessi ciclisti, perché le vedono come un surplus, non riesco a capire il perché. Deve avere lo specchietto la bicicletta? Allora, lo specchietto è comunque un qualcosa che serve al ciclista. Non è obbligatorio però. Non è obbligatorio, però comunque serve. Io faccio educazione stradale da 10 anni ai bambini, e le posso garantire che siamo gli unici che riusciamo a trasmettere queste informazioni agli stessi bambini. Ma non trova lei, quanto proprio agente di polizia, che sia un po' singolare che in realtà uno può entrare nel traffico? Lo stesso problema, ne parlavamo tempo fa. Era prima per i conducenti di ciclomotore, glielo posso garantire. Avere almeno un minimo di nozioni. Esatto, io prima, quando ho iniziato a fare educazione stradale, non era obbligatorio il patentino per i ciclomotori. Infatti l'anomalia che ho sempre fatto presente ai ragazzi a cui andavo loro a dare spiegazione, perché io le definisco delle spiegazioni, non delle lezioni, perché non sono un insegnante, dicevo, guardate che al giorno d'oggi ci sono delle anomalie assurde, come il condurre un ciclomotore senza nessun tipo di documento. Io a 14 anni avevo un motorino, faceva 150 all'ora, me lo comprarono e andrei per strada, mi ricordo. Pensi che adesso ci sono ancora che fanno quella velocità lì. Grazie Giovanni. Davide. Buongiorno. Ciclista e medico. Sì, io vado in bicicletta regolarmente 3 volte la settimana. Quando non vado in bicicletta mi muovo in moto. Purtroppo quando io abito a Belluno, qui c'è la neve o nevica, sono costretto a prendere la macchina, anche se preferisco andare a piedi. Quello che così volevo dire è che, alla luce anche della mia esperienza professionale, io da circa 30 anni lavoro in rianimazione, credo di poter, come dire, avere un osservatorio privilegiato nel bene, ma soprattutto nella constatazione di quello che effettivamente succede e quali sono le effettive responsabilità e scarse attenzioni che gli utenti della strada quindi hanno. Quindi ne vede arrivare parecchi di ciclisti travolti? Io ne vedo arrivare parecchi e le vere utenze deboli della strada sono proprio loro e sono i pedoni. Una sottolineatura va fatta rispetto anche a quanto detto prima dal vigile, dal poliziotto locale. Ecco, tutti noi siamo, come dire, perseguitati e siamo attenti, ed è giusto che stiamo attenti a non superare i limiti temendo gli agguati coi telelaser. Io quando pedalo sulle strade ogni tanto mi diverto a contare quanti automobilisti usano il telefonino oppure stanno facendo dell'altro mentre sono alla guida. Sono circa 1 su 3, 1 su 4, e a quanto mi risulta, forse l'esperto che è presente di da voi lo sa senz'altro, mi pare che in alcuni stati degli Stati Uniti scatti addirittura l'arresto per chi guida distraendosi in questo modo. Riccardo Alemanno, sentiamo un attimo Alemanno su questo dato del telefonino. A Roma dovrebbe arrestare, penso, i 2/3 degli automobilisti, almeno in città. Ha detto benissimo, la distrazione è la principale causa degli incidenti, ed è anche vero che in controtendenza sono aumentati i morti pedoni e anche quelli, i ciclisti, per fuoriuscite, per cadute, per investimento di pedoni, sono tutte statistiche in aumento, quindi in controtendenza con la diminuzione generale degli incidenti. Quindi le utenze deboli della strada sono ancora più deboli. Sono sempre più deboli. Sempre più deboli. C'è, a mio avviso, una scarsissima sensibilità da parte delle forze dell'ordine, in primo luogo, e io a volte mi fermo proprio per constatare questo fatto. Sembra che i vigili non siano assolutamente interessati a controllare questo fenomeno che comporta rischi elevatissimi, non solo per i pedoni e i ciclisti ovviamente, ma per tutti gli utenti della strada. Un'altra osservazione volevo farla in merito alla moto. Io sono un utente motociclista da 40 anni ormai, perché da 14 anni viaggio in moto. Quello che ho potuto constatare, anche alla luce della mia esperienza professionale, è che ormai sono ben pochi i motociclisti che, diciamo, vengono coinvolti in incidenti e sono vittime di di un impatto con un'automobile o con un camion, un mezzo più grosso, generalmente, molto spesso fanno tutto da soli. Io credo che il fatto di dare a 21 anni una moto da 100 cavalli, per cui con un quarto di giro di acceleratore se ne scaricano 50 per la strada, magari con la pioggia e con il ghiaino, sia una cosa che va assolutamente rivista. Riccardo Lemanno, su questo qua tu sei anche motociclista. Io sono anche motociclista, è vero, infatti per i motociclisti vale la consapevolezza di, come abbiamo detto noi dell'Automobile Club di Roma, in moto l'airbag sei tu, questo slogan, e il fatto che il motociclista sia insieme agile e fragile. Però non ti gonfi, quello è il problema. E non ti gonfi, esattamente. Però ecco, ha ragione, la scivolata è una delle cause principali degli incidenti, però nel motociclista è un po' diverso, perché il motociclista spesso adotta dei comportamenti un po' quello urbano, cioè il motociclista che vuole evitare il traffico, le file, i parcheggi, eccetera. Ha dei comportamenti che rischiano di mettersi a rischio, è più agile degli automobilisti, ma al tempo stesso se viola il codice della strada basta una piccola scivolata, uno scontro laterale a un incrocio, io dico le più frequenti, un tamponamento che cade per terra con rischio di conseguenze letali. Ci fermiamo un istante per le informazioni dal traffico, appunto, a fra poco. Quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait. Or bene mai avrei pensato di toccare un tema così vissuto intensamente dai miei ascoltatori. Stanno arrivando valanghe di telefonate. Luca Conte, autore del manuale di resistenza del ciclista urbano e di Ciclo Editore. Vediamo di ristabilire un punto di vista del ciclista, come lei ha detto prima, era un po' considerato come quell'eccesso che fa levitare le statistiche di incidenti e quella sorta di utente della strada che sembra avere meno diritti degli altri. Senz'altro, questo è un po' il punto di vista autocentrico che poi predomina nella nostra società, e quindi poi di conseguenza su questo si potrebbero fare molti ragionamenti. La normativa in generale, le varie leggi, sono state fatte anche 20 anni fa delle leggi sulla mobilità ciclistica che sono rimaste inapplicate praticamente, e le leggi ci sarebbero, il problema è un problema globale di risoluzione di problemi strutturali che si possono, soluzioni che si possono perseguire con poca spesa. Basti pensare che per esempio a Londra, quindi non in una piccola cittadina, è permesso il transito contromano soltanto alle biciclette, con una scia o con una striscia per terra ovviamente che indica la corsia delle biciclette, e questo alleggerisce di molto i problemi di mobilità dei ciclisti, che spesso, come diceva il signore in precedenza, si trovano a fare lunghissimi giri a senso unico proprio perché le nostre città sono ormai modellate a forma di automobile, quindi anche ci sono strade a due corsie, a grande scorrimento, addirittura prive di marciapiedi. A Roma abbiamo tantissime strade che non hanno i marciapiedi per motivi proprio della planimetria dei palazzi, quindi sono nate No, lì si rischia di proprio di essere spiaccicati contro il muro di un palazzo in bicicletta, c'è proprio pochissimo spazio. Ma lei ha qualche consiglio pratico per chi va in bicicletta, vuole avere diritto di esercitare la sua libera pedalata in città? Dunque, i consigli inizialmente sono quelli di prendere dimestichezza con il traffico a bordo di una bici. Questo si può fare in giorni meno trafficati, cercare di spostarsi, trovare degli itinerari anche giusti, congeniali, che seguano strade secondarie, per esempio. Poi cercare di mantenersi comunque sul lato destro della carreggiata, anche se qui bisogna stare attenti: da un lato ci sono gli sportelli delle auto e dall'altro ci sono le auto in marcia, quindi bisogna sempre mediare in questo contesto per seguire la propria traiettoria, che, come ripeto, è poco ingombrante. Uno sceglie fra una sportellata in faccia e un paraurti. Sì, è un classico, diciamo, di chi poi sta troppo attaccato alle auto in sosta. Ovviamente poi si sviluppa anche una capacità percettiva diversa rispetto all'automobile, perché si sta all'aria aperta, la visuale è molto più ampia dell'automobile, quindi tanti timori che all'inizio frenano, che poi si sente dire, insomma, spesso le persone che ti parlano dicono anch'io vorrei, però ho paura, eccetera. Molti timori vengono ridotti sensibilmente attraverso un minimo di esperienza. Poi rimane certo il fatto che sei fragile, sei su un trespolo di ferro e ti stai muovendo a pedale. Posso fare una domanda tecnica? Sento parlare molto ultimamente delle biciclette con pedalata assistita. Fa parte, diciamo, del vostro corredo quotidiano o è già una cosa che non è più bicicletta, secondo voi? Secondo me non lo è. Io aborrisco questo tipo di soluzioni, ma non è... Non va molto è di moda adesso. Sì, diciamo che è un veicolo che può essere utile in alcuni contesti, però è molto pesante proprio per il fatto che porta con sé un motore, una... È una quasi motociclettina, ecco. Sì, sembra un vecchio, sì, un vecchio Piaggio a pedali, quindi... Però ecco, poi c'è chi lo usa, ci sono persone di una certa età che magari devono superare dei dislivelli, può essere utile. Poi ovviamente c'è il problema della carica elettrica, comunque insomma queste cose si possono fare tranquillamente, ognuno poi ha il suo stile, si può andare in mountain bike con bici da corsa, insomma ci sono varie soluzioni. Sentiamo Francesca. Francesca, buongiorno. Buongiorno, io sono ciclista sempre. Dove? A Padova. Grazie. A Padova, abito a Padova. Una delle, sì, patrie dei ciclisti. Certo, ma perché è una città che non solo rispetta i ciclisti, ma con poca spesa, come appunto diceva Conti appena poco fa, è riuscita a incrementare ancora di più il numero dei ciclisti. Ci sono piste ciclabili anche contromano con la striscia dipinta e con una specie di protezione per i ciclisti. Le strade sono a senso unico per le macchine, a doppio senso per le bici, ci sono strade miste per ciclisti e pedoni e non per le automobili. Sì, ma sono luoghi quelli in cui storicamente si va in bicicletta, un po' per la morfologia del territorio, sono città pianeggianti, un po' perché è proprio nel costume, nell'abitudine. Sì, lei consideri che in una città diversa andare in bicicletta è una scelta culturale, non si va in bicicletta perché è comodo, perché io rivendico il mio diritto di andare in bicicletta perché voglio non affaticarmi con l'automobile, stare sereno, tranquillo. Quindi dietro il fatto che ci sia una battaglia ideologica non si può fare a meno di considerarla. Padova, no, è normale andare in bicicletta. Ma ad esempio hanno fatto adesso dei nuovi cavalcavia per andare anche in quartieri lontani. Tutti i cavalcavia hanno a lato la pista ciclabile, sono stati progettati per avere la pista ciclabile. Voglio dire, cavalcavia che portano anche a 10-12 km di distanza, voglio dire, dal centro. Quindi a Padova si rischia meno andando in bicicletta? Sì, si rischia meno, per carità, anche io sono stata investita. Però c'è sempre Sant'Antonio, potete sempre chiedere. Esatto. Prima. Però comunque è sì una questione culturale, ma anche una questione di scelta politica in senso lato. Nelle città come la mia è possibile farlo ed è assolutamente aiutato. Grazie, sentiamo... Grazie, sentiamo Lorenzo. Lorenzo. Sì, buongiorno Nicoletta. Allora, secondo me la prima cosa è proprio la maleducazione civile che abbiamo noi, perché se figuri se a Milano ci fossero le fasce come ci sono a Padova, quello che succederebbe. Poi quello che affermava adesso... Sono città costruite diversamente, però adesso... Sì, vabbè, comunque si può fare. Poi parlando come prima che nelle città le statistiche non ci sono ciclisti, certo non ci sono le attrezzature, c'è proprio una sottocultura in Italia, non c'è niente a fare. Poi volevo raccontare un fatto, perché io vado un po' i paesi del nord, la Germania, così là è una cosa c'è totalmente diversa che qua. Comunque, per dire, io ero in un parco, no, Basilea, in bicicletta, un parco enorme, ci sono strade asfaltate per passa solamente polizia e quelli che gestiscono, diciamo, il parco, così. Io non lo sapevo, ero su una... E poi ci sono le stradine sterrate appunto per le biciclette. Ma dove ci sono i paradisi per il ciclista? No, grazie, nessuno. Sì, ma per dirle, cioè a me mi stavano dando la multa nel parco perché stavo andando sulle stradine asfaltate, no, non sterrata, quelle appositamente per le biciclette. Vabbè, questa è la quintessenza dell'efficientismo. Comunque, parlando di Basilea, sì. Cioè lei sì, ma io vedo, cioè, Le mamme che vanno con le biciclette con dietro il carrellino, non so se le ha viste ancora. Sì, l'ho viste, si vedono quando scendono, li facciamo una foto. Ma immagina qua in Italia una cosa del genere. Sì, ogni tanto si vedono stranieri che vengono in Italia col bambino dentro la carrozzina. E là è una cosa normalissima. Sì, cioè, da noi è una camera gas ambulante per poveri bambini. Una camera gas, ma chissà quanti morti i bambini ci sarebbero. Poi le macchine, non c'è niente a fare, c'è una maleducazione tremenda. Cioè vanno sulle corsie degli autobus, sulle corsie delle... Vabbè, adesso questo è detto, Lorenzo, la devo segare. Riccardo Alemanno, sul trasporto del bambino in bicicletta, questo è anche importante, ci sono delle regole anche lì? Sì, chiaramente, perché li mettono dappertutto. Ci sono regole anche lì, bisogna stabilire appunto che ci siano installati dei supporti verificati come stabili, però diciamo così, per chiudere la trasmissione, Diciamo che l'appello è anche alle amministrazioni locali, perché quando si parla di utenti deboli della strada, qui ha ragione Luca Conti, poi inevitabilmente si deve cercare una soluzione sull'infrastruttura stradale che permetta a queste utenze di viaggiare in sicurezza. Quindi il primo problema sarebbe una politica a lungo termine. Organizzare le città a misura di ciclista. Oltre a stabilire questo principio di prudenza generale, articolo 141, ma al di là dell'articolo, sapere che la strada è un luogo di condivisione di utenti più forti e più deboli. Quindi dato per scontato, ammesso e concesso, anzi celebrata la debolezza dei ciclisti, anche i ciclisti dovrebbero tenere conto che in realtà le strade in gran parte sono frequentate da automobili che sono molto veloci, molto pesanti, molto dure quando ti vengono a sbattere addosso. Grazie Luca Conti, grazie Fabrizio Intonti e Rocchetti. Alors tous deux on est reparti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.